parte del radio che non si capisce. Allora, guarda tu dice, va bene, uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova, ora da aumentare o diminuire? Ah, ciao Fabri, dovresti diminuire un po'. Adesso diminuisco un po', che sta portando questa parecchia, uno, due, tre, prova. Ma ancora, la modulazione è tutta strana, c'hai, capito? È un leggero fischio, appresso. Adesso ho diminuito ancora l'amplificazione, diminuisco la troppo, guarda adesso uno, due, tre, prova, sono con Pluto e Super Tarderic. Adesso va meglio. Dimmi se devo diminuire, Super Siderico, dimmi se devo diminuire o aumentare, uno, due, tre, prova. Ah no, lascialo così. Va bene, allora guardi, questo è uno, due, tre, prova, questo è... Dimmi se aumenta, Guarda se è aumentato di molto o di poco. Ma il segnale o che cosa? La radio è sensato. Sembra che sia in FM. Perché ho messo un amplificatore. Così magari va un po' meglio, uno, due, tre, prova. Prova un po', fa un passaggio più lungo. Allora, questo è con una tappa, uno, due, tre, prova base. Siamo a sensato, forse perché siamo molto vicini. Io sto usando un Zodiac di quei 40 canali di bettola. Vabbè, così sono liscio, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, tu non mi ricordo più come si usa perché c'è un fermo dopo. Ieri sono andato a usarlo e rendava potente, quindi è stato aperto stasera per ripararlo, l'ho messo a posto e lo sto provando. Allora, questo è il Pluto con Super Siderick. Adesso va meglio, ti ascolto chiaro. Adesso provo un altro baracchino, aspetta. Segna. Questo invece è, che ce l'ho fermo l'apparecchio, anche questo l'ho messo solo perché aveva problemi alle luci. Questo è l'Alan 48 con tutte le modifiche possibili immaginare che si possono fare. Una carcumba, Questo si cresce bene. Questo c'ha tutto da scheda call, boh, non me lo ricordo, l'ho aperto perché non stavano funzionando le luci quando cambiavo, perché passano da blu a rosse quando trasmetto tutto il fronte, non l'ho aperto, minchia, ce ne sono poco dentro, ho visto trasformatori, schede, relè, non so nemmeno come dove metterci, l'ho fatto io, ma non so più dove metterci le mani, non so nemmeno più se si rompe, non so dove, proprio dove metterci le mani. Perché te le dimentichi dopo quel po'. Per fargli la modifica c'è lo schema elettrico, se tu devi cercare lo schema elettrico e vedere un po' come installarlo. E non so, mi ricordo a malapena come ci ho messo l'obiettivo 4 tonni nel 2009, figurati tu. Vabbè, comunque anche questo l'ho riparato, dai. Non li ho usati mai, ieri sono andato a fare delle prove e niente, e non andava. Vabbè, e quindi adesso provo quello che uso di solito, aspetta. Ecco, questo è quello che uso di solito. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova. Esce bene, a voglia. Sì, perfetto, sì. Questo è il 440 chiuso in 27 quando esco. E anche questo è un po' di mugolo, non mi ricordo più niente. E stiamo facendo delle prove, a fermo. Ecco qual è il suono, quando si è attaccato le casse del coso, vabbè. Comunque questo è il K. Funziona benissimo. A voglia. Un troeno. Un po' di polvere, proprio. Va bene, dai. Invece che mi riordino un po', poi dovrei provare qualche altri due tre baracchini che ho riparato, ma oggi non è voglia. Devo fare un paio di controlli. Dai, ci sentiamo dopo. D'accordo, ok, a dopo. Ciao. I'm about to use the view. and your friends. Watch it up, sink in. This job is not in that sin. If you believe that we can make some magic every day, yeah. If you believe that we can make some magic every day, yeah.